America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. Now it's the time in which we can use this expression. Italy is back. Italy is back, l'Italia è di nuovo in sella. Beh, può sembrare uno slogan, ma questo è il messaggio sintetico che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha dato ieri agli studenti della Georgetown University, ed è il messaggio sintetico che porterà adesso, fra poche ore, qui a Washington, alla Casa Bianca, dove sarà ricevuto dal Presidente Barack Obama per il loro primo incontro qui nella capitale americana. Mr. Provost, faculty students, dear friends of Georgetown University, your excellencies, ladies and gentlemen, amiche ed amici italiani, thank you so much for this warm welcome. Ecco, Matteo Renzi ha cominciato il suo dialogo con gli studenti parlando delle università, dell'importanza delle università, e ha detto, per noi sono molto importanti perché, soprattutto in Italia, è attraverso questi luoghi che potremo guardare nel futuro invece di guardare nel passato. Ma preferirei farvi ascoltare alcune delle domande. Cominciamo da questa prima domanda di una studentessa italiana che sentirete, si presenta, fa una domanda a Matteo Renzi e poi gli chiede in inglese, per cui ve lo anticipo, gli chiede: ma quali sono le proposte concrete che lei fa? Quali sono i fatti concreti al di là delle promesse che lei ci fa per garantirci che un giorno potremo tornare in Italia? Quindi, una domanda, devo dire, abbastanza provocatoria. Sentiamo la domanda e la risposta in italiano, l'unica risposta in italiano del Presidente del Consiglio. Buongiorno Presidente Renzi, grazie di essere qui prima di tutto. My name is Costanza Concetti, and you've said that the future of Italy is more interesting than the past. And seize the opportunities that our country has to offer us. Then I want to ask you, what is your outlook on the specific opportunities that our countries will provide to us in terms of innovation, infrastructure, and energy? Let me speak about this point in Italian, if you agree. Io non vi dirò mai, come vi hanno detto in tanti, tornate, mi raccomando, c'è la fuga dei cervelli, sono preoccupato. Intanto è un'espressione stupida, la fuga del cervello, il pancreas, cos'è, è rimasto in Italia, non lo so. Ma il punto fondamentale è che è normale in un mondo globale poter vivere il proprio sogno anche lontano da casa. Quello che voglio dirvi è che io vi assicuro che noi faremo un paese in cui si va avanti non perché abbiamo gli amici degli amici, ma perché il merito conta. Si va avanti perché l'occasione di inseguire un sogno non è soltanto da questa parte dell'oceano, ma anche a casa propria. Se poi volete restare qui perché vi sposate, vi fidanzate, perché state bene, perché vi piace più gli Stati Uniti, good luck. Ma se volete tornare indietro, troverete un paese che smette di essere ostaggio del potere di rendita dei soliti noti. Costi quel che costi, potrò perdere le prossime elezioni, ma non perderò la faccia davanti a voi. Questa è la mia promessa. Renzi, in questo contesto, ha anche spiegato quali sono i suoi impegni. La riforma della legge elettorale, ha detto che ci sarà entro poche settimane la riforma della legge costituzionale, un cambiamento della pubblica amministrazione per introdurre un modello semplice, in modo che sia facile capire che cosa funziona e che cosa non funziona. L'idea, dice Matteo Renzi, è di restituire ai nostri cittadini la fiducia nel governo, la fiducia nello Stato. Ed è partendo da questi presupposti che poi Matteo Renzi risponde, sempre sul fronte economico, a un'altra domanda piuttosto provocatoria. Sentiamo anche questa. What gives you confidence that what you are doing is working and will work? Ecco, avete sentito un po' di questa domanda. Dice, ma signor Presidente del Consiglio, ma perché noi dobbiamo essere ottimisti? Le proiezioni che vediamo dal Fondo Monetario Internazionale oggi sono fra le peggiori nella comunità europea per la crescita italiana. Che cosa le dà questa fiducia che tutto poi potrà funzionare, che sta funzionando adesso e che funzionerà dopo? Ecco, una domanda molto vera, perché in effetti è un dibattito in corso. Cosa c'è dietro questo ottimismo del nostro Presidente del Consiglio? Ci sono dei fatti? Ci sono delle proiezioni molto concrete? Questa è la risposta di Renzi. 2012, Mario Monti's government, GDP Italy minus 2.3%. 2013, Enrico Letta government, minus 1.9%. 2014, 0.4% with my government. Ecco, Renzi risponde prima dal punto di vista tecnico e parla di crescita, dice beh, per esempio abbiamo dei dati molto concreti, nel 2012 la crescita del PIL è stata negativa almeno 2-3% col governo Monti, nel 2013 governo Letta meno 1,9%, oggi siamo a una crescita dello 0,7%, è vero il Fondo Monetario dice lo 0,5, però dice Renzi non è questa grande differenza, il punto centrale è che abbiamo fatto il giro di boa. E lo abbiamo fatto perché? Perché siamo riusciti a mettere insieme le riforme oltre alle politiche di austerità. Siamo riusciti a restituire un minimo di fiducia nel paese, abbiamo cambiato le leggi sul lavoro, abbiamo diminuito il potere della burocrazia e poi dà un esempio sul risparmio. Dice perché dobbiamo dare questi messaggi ottimistici? Perché la gente si deve fidare, deve guardare in avanti, deve capire che c'è un futuro promettente. E dà un dato, nel 2012 i risparmi erano per circa 3.500 miliardi, nel 2014 sono aumentati a 3.900 miliardi. Questo significa che la gente ha paura di spendere, preferisce tenersi i soldi stretti, c'è un problema di fiducia e dunque è su questa fiducia che bisogna agire. Sentiamo il passaggio particolare. I know in the next years if Italy make the reforms, Italy will be the leader of Europe for the next 20 years. Ecco, questo è l'affondo di Renzi. Dice, io sono felicissimo per la Francia e la Germania, oggi forse hanno dei dati di crescita, hanno delle previsioni che sono migliori delle nostre, ma nei prossimi anni, dice Renzi, se l'Italia farà le riforme, sarà il leader europeo e sarà il leader europeo per i prossimi 20 anni. E questa è una realtà, non ve lo dico per avere un applauso. Le nostre pensioni sono in ottimo stato, abbiamo degli ingegneri straordinari, abbiamo un paese solido. E dunque questo è il modo in cui Italy comes back, non solo nel suo ruolo di leadership all'interno, ma perché potrà essere la speranza per il resto dell'Europa. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.